Salve a tutti, io sono Gabriele, benvenuti sull'Arcadia con Radio Big World. Siamo qui per affrontare un viaggio insieme, per parlare della forma del nostro pianeta e per provare un po' a avvicinarsi alla verità, forse. Se ci riusciamo, magari piano piano insieme riusciamo a avvicinarci a questa verità che ci sembra così lontana. E ogni giorno siamo pieni sempre più di domande invece di risposte. Ci sono sempre più persone là fuori che dicono di essersi svegliate, che la realtà è diversa. Probabilmente c'è del vero in quello che dicono, semplicemente un gran numero di persone sta impazzendo. Per me vale la pena di fermarsi ogni tanto, prendersi anche un minuto per riflettere. Riflettere su cosa? Su quello che siamo o saremmo voluti essere. Se il mondo è come ci immaginavamo che fosse quando eravamo piccoli. Per esempio, io ero convintissimo che non ci sarebbero state più guerre. Non riuscivo a capire perché. Credevo ci fosse cibo ed acqua per tutti e credevo fosse una cosa naturale dell'uomo aiutarsi a vicenda. Poi le distrazioni, la vita troppo impegnata, gli studi, lo sport, poi il lavoro. Ed ho smesso di farmi domande. Continuavo a criticare le cose secondo me sbagliate, ma invece di fare qualcosa per cambiarle, provavo solo rabbia, una rabbia che continuava a crescere, come se la colpa fosse delle persone. Uscivo e riuscivo solo a vedere cattiveria e odio intorno, ed è stato quell'odio che mi ha portato a vedere le cose come vedo adesso. E volevo dimostrare che chi andava in chiesa e credeva in qualcosa di superiore o divino e ci avesse creato, si sbagliava. Com'è possibile che oggi ci siano persone che, con tutto l'odio e la fame e la sofferenza che c'è nel mondo, possono pensare che esista un Dio buono? Quindi ho iniziato a cercare i video dello spazio, dell'atterraggio lunare, che penso tutti, anche da piccoli, abbiano sentito parlare che era finto, che non era vero niente. Però non abbiamo mai scavato, non siamo mai andati a scavare veramente, almeno da piccoli. Poi il modello che ci veniva dato a scuola, chi è che non si fida dei professori, no? Insomma, me lo dice il professore, vedo le foto nel libro, tutti la pensano così, è tonda per forza. Sbagliato perché ci viene insegnato questa cosa nel momento in cui siamo più deboli, la nostra mente è ancora da riempire, siamo un corpo vuoto che assorbe tutto quello che vede e sente. Le domande che una persona non si fa più o che smette di farsi è perché gli sono già state date le risposte quando era piccolo, almeno su questo argomento. Per questo quando ti viene detto ma la terra potrebbe essere piatta, la vomiti dalla rabbia che ti fa anche solo il pensiero che una persona possa pensare una cosa di genere, perché è stata insegnata a tutti e ti sembra impossibile che ci sia qualcuno e la pensi in maniera diversa. E invece di dire no, non mi interessa, è una cosa troppo stupida per perderci del tempo, mi sono chiesto cosa cambia se è tonda o piatta. Perché se è tonda, il nulla è esploso e è venuto fuori quello che è venuto fuori. Se è piatta, allora la Bibbia c'ha un fondo di verità molto più grande di quello che pensiamo. Dico la Bibbia come esempio, perché potrei nominare il Corano o altri testi sacri che rappresentano la Terra come un sistema chiuso e non una sfera vagante nell'universo. che è comunque un sistema chiuso anche quello, però è un po' più particolare. La domanda che mi è venuta subito a testa è: perché mi hanno mentito? Perché non mi hanno fatto vedere tutti e due i modelli? Perché non me le hanno fatti mettere a confronto? Mi hanno dato il modello della sfera, mi hanno dato le foto, mi hanno dato le immagini, mi hanno dato la storia, come ci sono arrivati al modello del globo, ma non mi hanno dato un modello valido, storicamente valido, per metterle a confronto. Non me l'hanno fatto mettere a confronto il globo, mi hanno semplicemente detto è così e accetta quello che è. Una volta, almeno a me a scuola e nel libro di scuola, che c'era il bordo e pensavano che si cascasse di sotto e ci fosse chissà quali mostri marini ad attenderci alla fine del mondo, quando invece se andiamo a scavare, come dicevo prima, se andiamo a scavare ci rendiamo conto che avevano un modello, c'erano delle mappe. Quindi vale la pena di perdere un po' di tempo e scavare un po' per renderci conto davvero com'è la realtà, se è davvero come ce la immaginiamo, come la viviamo tutti i giorni, o se è davvero diversa come tanti affermano che sia, come io affermo che sia. Insieme vedremo come farla. Vi saluto, grazie per essere stati con me, grazie a Radio Big World e alla prossima.